avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Ho avuto periodi della mia vita in cui ero, per circostanze professionali, costretto a passare più notti in stanze d'albergo che a casa mia. Era una sensazione meravigliosa alzarsi la mattina e non ricordarsi in quale città del mondo si fosse. Del mondo, beh, non mi allargo troppo, quale città d'Italia. Girovagavo per il paese come un tristanzolo inviato alla ricerca di ciò che accadeva nel mondo. Beh, mi capitava di frequentare alberghi di tutti i tipi, da begli alberghi lussuosi nelle grandi città a quei tristi motel sull'autostrada, dove c'è anche il ristorante incorporato, nel salone illuminato alla luce al neon si è soltanto uomini. Ogni tavolino c'è un uomo, tutti uomini a tutti i tavolini. Il massimo della vita era chiedere la coperta viva. Io non l'ho mai chiesta, ma mi dicevano e girava voce che con questa fantomatica richiesta si potrebbe forse aver avuto compagnia in camera. Ma penso sia una leggenda metropolitana, quella della coperta viva. Ho frequentato alberghi anche assieme a colleghi. Si prendeva ognuno la sua stanza, ci si vedeva sotto, poi si saliva, poi si entrava nella propria stanza. Chiusa la porta, finiva il mondo. Non è sempre che la vita errabonda di colui che va in albergo per lavoro è una vita molto movimentata, la maggior parte delle volte è triste. La maggior parte del tempo si passa, da quando ci sono i canali satellitari, a guardare la televisione con il telecomando in mano. Nei casi più disperati, nei casi di uomini particolarmente soli, nei casi di uomini particolarmente compulsivi, relazionalmente arretrati e incapaci comunque di crearsi paradisi onirici, esiste quella clausola pietosa dove è scritto anche i film a pagamento vengono messi nella fattura con scritto film a pagamento senza specificare il canale e il film. Per questo dà un po' l'idea che in realtà la stanza d'albergo può essere intesa anche come un'uscita dal mondo, che poi l'uscita dal mondo significano semplicemente aprire una porta e sbattere la faccia sul muro che sta oltre la porta. Questi sono fatti di chi ha poca fantasia, ma entrare in una stanza d'albergo molte volte fa immaginare, sognare, presupporre che ci sia una stanza accanto da cui si aprano paradisi inimmaginabili, o si facciano scoperte, o si immaginano le tracce di chi prima di noi ha frequentato quella stanza. Insomma, entrare in una stanza d'albergo è entrare in un romanzo. Perché? Perché non c'è la consuetudine del consunto, dell'abitudine, delle persone che la mattina comunque ti svegliano, o se anche non ti svegliano persone, di riconoscere sempre le stesse cose. E soprattutto gli alberghieri compulsivi, cioè quelli che viaggiano molto e stanno molto in albergo, hanno questa fantastica sensazione di trovare dei punti comuni, qualcosa che si riconosce, qualcosa di comune a tutti gli alberghi, che è quel senso di dissolutezza rispetto al quotidiano che scorre fuori. Scorre fuori molte volte una città che noi non conosciamo, o conosciamo, con cui abbiamo qualche contiguità, qualche familiarità, o assolutamente ci sono persone che incontriamo soltanto nell'ascensore, incontriamo soltanto in quelle fantastiche salette in cui si fanno le prime colazioni, piene di giapponesi che si riempiono i piatti di frittate, di salame, di salsicce, e sopra ci mettono la marmellata, ci mettono i cornflakes, poi ci buttano il latte, lo yogurt. È bellissimo vedere questi ammonticchiamenti ultrasensoriali degli ospiti dell'albergo. Beh, questa mattina 800240024, o voi stiate uscendo dalla stanza del vostro albergo e avviarvi verso la mesta giornata lavorativa, o voi abbiate un ricordo mesto, un ricordo piacevole, un ricordo fugace, clandestino della stanza d'albergo, beh, questa è la vostra giornata. Ho investito anche per Cosa Nostra. Per loro ho investito 250 miliardi, in due ore ne ho persi 220. Ma hanno capito che non me li sono messi in tasca. Mi hanno fatto la grazia e mi hanno chiuso qua. In questo albergo. Da qua una, due volte alla settimana trasporto una valigia con dentro milioni di dollari in una banca. Ma non sono affiliato a Cosa Nostra. Ho una pistola, ma non l'ho mai usata. Soffro di insonnia. Sono separato da mia moglie da 10 anni. Ho 3 figli, spesso gli telefono, ma non mi vogliono parlare. Domani faccio 50 anni. È il mio compleanno. A quanti è accaduto di passare il compleanno, una festa, molto triste passarci il capodanno, molto triste passarci quelle feste in cui tutti comunque hanno perlomeno l'illusione del calore di persone affettuosamente legate attorno a loro. Beh, questo è il caso di Tony Servillo, che è una sorta di cassiere riciclatore di denaro sporco, che vive in un albergo in Svizzera. Il film è Le conseguenze dell'amore, film di Paolo Sorrentino, e naturalmente questa mattina, traendo ispirazione dalla storia del mondo raccontata dal cinema, abbiamo in studio Giuseppe Sanzon. Buongiorno. Allora, il cinema si è molto appassionato in vari momenti dell'uscita dal mondo attraverso l'albergo. Uscite dal mondo che possono essere fantastiche, possono essere delle derive dell'immaginario che portano ovunque. Immaginiamo Ultimo Tango a Parigi, non è una stanza albergo, comunque una stanza in affitto, comunque qualcosa che assomiglia comunque, no, all'albergo. Per quanto lui facesse l'affittacamere, poi Brando in quel film comunque vive in quel contesto alberghiero. Quindi lo possiamo associare comunque a dei luoghi che si affittano e passare del proprio tempo, sia albergo ore, sia stanza in affitto, sia bed and breakfast, sia casa vacanze, sia grande albergo, sia pensioncina squalda. Nel caso di Servillo, di cosa si tratta? Lui è appunto il commercialista della mafia, che è il volto asettico della mafia, che porta i soldi in Svizzera e vive in questa attesa perenne, in questo albergo di Lugano, un luogo asettico dentro un luogo asettico, cioè un albergo dentro la Svizzera, e porta questi soldi e vive incatenato ai propri rituali, si droga, ma anche il vizio, anche l'eroina è un rituale, e poi c'è la pulitura del sangue una volta all'anno. Gioca a carte, altro rituale da albergo di incatenamento perenne a questi tavoli in cui si gioca a carte per ore e ore, e con i vecchi proprietari dell'albergo, e ha questa attesa becchettiana di qualcosa che verrà, in questa sorta di palcoscenico cristallizzato in questo spazio qualsiasi della modernità, la verità che è l'albergo. Anche perché quando frequenti abitualmente l'albergo, i tuoi familiari, i tuoi amici, i tuoi occasionali compagni, per passare il tempo, per scambiare due chiacchiere, sono le maestranze dell'albergo. È il barista del bar dell'albergo, è la cameriera che ti cambia a letto quando cominci a essere due giorni, ti cambia a letto la stessa cameriera, diventi amico di quella cameriera, è il signore che sta all'accettazione, è il fattorino. Come ricorderai, nell'Overlook Hotel di Shining, appunto, Jack Nicholson che incontra questo barista, che è una sorta di barista metafisico. Ecco, lì è l'albergo come ossessione, come spazio mentale fuori dalla vita, una sorta di cristallo in cui uscire e reinventarsi. Allora, 800240024, avete anche voi il vostro albergo fantastico, avete anche voi la vostra occasione di passare in albergo gran parte del vostro tempo, avete anche voi questa sensazione di entrata e uscita da due universi paralleli, combacianti ma estremamente dissonanti, quando pagate il conto, ve ne andate, fate il check out in un albergo, o quando entrate per la prima volta e aspettate che vi diano la stanza e immaginate quale sia mai quella stanza. Magari molte volte per i frequentatori abituali degli stessi alberghi è una stanza che per voi ha dei ricordi. Entrare in una stanza albergo intrisa di ricordi, di momenti passati in quella stanza, è atroce, come tornare nel paese dei balocchi di quando si era ragazzi. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Lei è un compulsivo albergante? Purtroppo sì, anche se a volte... Non è male, dai, non è male la vita d'albergo. Ha il suo fascino, a volte forse un po' stanca, ma forse stanca il non potersi godere il proprio mondo, la propria casa, quindi aver scelto comunque un lavoro che in determinati periodi ti fa girare, ti fa viaggiare tantissimo, questo. Però ci sono esattamente quei piccoli rituali, quelle sensazioni che ogni volta fanno in modo che ci sia una nuova scoperta. Ecco, lei parlava di come sarà la stanza. Io purtroppo ho qualche piccola mania, perché quando poi fai oltre 100 notti all'anno e albergo, ma delle piccole manie. Quindi lei un terzo della sua vita la passa in albergo? Quest'anno è andata così, praticamente forse è più di un terzo. Sì. Che lavoro fa? Quello di Servillo? Ricicla denaro? No, purtroppo no. No, sono un consulente d'impresa, un libero professionista. Beh, più o meno, il lavoro sì. Mi porta un po' in Italia e anche a volte all'estero, ma soprattutto in Italia, quindi diciamo potrei scrivere sicuramente adesso una guida sugli alberghi in Italia. Ecco, cominciamo con il set del perfetto frequentatore d'albergo. Ad esempio, non tutti gli alberghi forniscono le pantofoline di cortesia, quindi io ho trovato delle pantofoline, quelle che si usano nel barcavela, in spugna di lattice perfetto, iperleggeri, me le porto sempre quelle. Ogni tanto me le frega la cameriera, con la scusa che pensava che fossero usa e getta. Lei ha altri stratagemmi? No, io ho le mie perché faccio sempre la doccia con le ciabattine, insomma quelle un po' del mare, le porto solo per il viaggio, una valigia ovviamente. Ma quelle squallide infradito, no, spero. No, le mie sono molto lussuose, che uno non sa mai, tante le volte capitasse, non capita mai, di avere delle stanze contigue con incontri fantastici onirici, uno mi può andare con le ciabatte infradito. Ho delle bellissime infradito brasiliane che in Italia, diciamo, è una fantasia che non si trova, quindi faccio bella figura di quello che gira un po' per il mondo, quindi. Però quelle, quando trovo quelle in spugna, le porto via. Poi tengo a casa per gli ospiti. Quelle bianche squalde sono tristissime, però si riconosce subito. No, sono fregate in albergo come i saponcini. Sì, ma infatti sono contentissimi gli ospiti quando vengono a casa, trovano le pattine degli alberghi e per loro è con scritto pensione Rosalinda o Grand Hotel Majestic. Non siamo più sul Grand Hotel che sulla pensione, di verità. Adesso non si allarghi troppo. Senta, gli incontri non si fanno mai, diciamo che non si fanno mai, ma uno sempre accarezza l'idea di fare un grande incontro in albergo, cosa che nella vita accade molto più raramente. Il bello degli alberghi è che forse esiste un momento a fine giornata, in cui tutti, ecco, si ritrovano in questo piccolo mondo comune. In realtà, anche se per ognuno c'è forse quella fantasia nell'incrocio dello sguardo della ragazza della colazione, piuttosto che la ragazza alla portineria, alla fine ci ritroviamo tutti con la stessa voglia di comunicare, e quindi io per esempio preferisco gli alberghi che abbiano delle belle hall dove le persone provano anche il piacere di restare su un divano. Però le posso dire una fattispecie che sto osservando. I belli alberghi con le belle hall, molto amato e continuo ancora a amare, ultimamente sono inquinati dalle convention, dalle presentazioni, che sono qualcosa che non ha nulla a che fare con il tradizionale humus dei frequentatori d'albergo. Si trovano queste signorine in divisa con queste centinaia di cultori del condizionatore iperbolico, della macchinetta per togliere il calcare all'acqua, che devono fare questa presentazione. E la sera, come topi spauriti, si aggirano per questo albergo vestiti male, con i jeans, un po' rozzetti, fuori contesto, e inquinano l'ambiente in maniera veramente a volte pesante, è d'accordo? Ci sono gli alberghi effettivamente un po' rumorosi da questo punto di vista, sì, nel senso ci sono alcuni veramente sono di centri congressi praticamente, questo sì, a volte sì, diciamo che almeno per la mia esperienza questo magari c'è anche tanta gente che va via al mattino presto e torna la sera, quindi questo a volte si evita durante la giornata, tranne qualche cena in cui anche loro restano per 2-3 giorni lì dentro, però altrimenti diciamo che si riesce anche ad evitare questa, devo dire. Sansonna, devi aggiungere qualcosa? No, io di recente ho girato in un albergo, ho girato una scena di un documentario, una scena reale, no? L'albergo è anche un posto in cui i calciatori, gli attori, gli artisti in generale passano moltissimo tempo e stemperano la tensione prima di entrare in scena, in queste lunghissime attese fatte di partite a carte, maratone di carte, insomma, quindi Zeman, io sto facendo un documentario su Zeman, incatenato a questa scala 40 che durava 10 ore nella hall di questo albergo di Termoli sul mare, in questa malinconia, che è un'altra fuori stagione, naturalmente. Sì, un altro elemento pregnante degli alberghi è una malinconia di fondo, soprattutto di certi alberghi di e soprattutto, ecco, andare negli alberghi in zone marine, marittime, fuori stagione, dove normalmente si fanno i convegni si fanno, che costa meno, fuori stagione. C'è questo mare invernale fuori, terribile, avanzi residui di vestigia spiaggesche, l'albergo invece ha una situazione invernale all'interno. E c'era una signora che ci viveva col suo foulard e fissava questo mare livido a Termoli d'inverno, appunto, è molto affascinante, una malinconia in cui era immobile questa signora, sì, forse era morta e mummificata, non lo sappiamo. Sì, il Grand Hotel, io chiamo il Grand Hotel la vecchia signora, ogni anno vengo qui per succere il miele dell'amore, do tenerezza e desidero tenerezza. Sono l'unico del borgo a frequentare il Grand Hotel. Ah, dicono ci sia stata la gradisca. Anzi, fu in seguito a quella per me improbabile avventura che venne chiamata appunto gradisca. Il suo vero nome è Ninone. Non a caso, tra i ricordi di Fellini, l'albergo è centrale, fondamentale, è il grande snodo di tutti i ricordi. Questo è il florilegio Liberty del Grand Hotel di Rimini, in cui la gradisca prende il suo nome dicendo gradisca, questo congiuntivo esortativo che fa al principe prima di concedergli le sue grazie. L'intimazione. Prezzolata. Io sono andato di recente al Grand Hotel e ero molto curioso. Nessuno ti ha detto gradisca? No, no, non solo, ho fatto un giro fra gli arredi Liberty nel parquet, negli arredi veneziani, nei grandi lampadari, mi hanno concesso, io ero vestito come un pezzente, come spesso mi accade, e comunque mi hanno concesso l'ingresso. Poi so, ho visto, ero incuriosito invece dal night sottostante, c'era un orrendo night alla Calboni, insomma, tipo l'ippopotamo di Calboni, subito sotto il Grand Hotel, pieno di ucraine, e sono andato a fare un giro, ero coesante, ho detto no, sono proprio curioso di vederlo, ho fatto un giro di 20 secondi netti per guardare, straordinario come sia decaduto tutto, anche crepuscolare oggi, insomma, rispetto ai fasti. C'è questa reliquia del passato, però contaminata molto da elementi. Nelle segrete c'era questo aspetto. Quei signori con le dita gialle di nicotina, con l'unghia lunga nel mignolo, con i capelli imbrillantinati e la forfora sulla giacca, che girano sperando di poter investire i loro sudati risparmi in qualche paradiso estremo. Aldo, ha qualcosa del genere nei suoi ricordi? Ah, anche peggio. Allora siamo qui per ascoltarla, con la bava alla bocca. Ah, senta, adesso potrei raccontarle che sono un padre di famiglia, delle mie avventure negli alberghi come cliente, ma quando studiavo a Bologna 10 anni fa ho avuto l'occasione di lavorare in alcuni alberghi. E prima di tutto voglio dire che quest'impeto mi è venuto per la volontà di incarnare Antoine Doinel nei film di Truffaut. Che se vi ricordate bene, nel secondo, il terzo, contando il primo cortometraggio, mi sembra Baci Rubati, lui quando non sa cosa fare, finisce di fare il militare, va a lavorare in un albergo dove poi viene cacciato per una storia di corna. E io, seguendo quest'impeto, sono andato in una bettola a Bologna, di cui non faccio il nome, dove in pratica la notte era l'ora di punta, perché era un albergo che conteneva solo clandestini, prostitute e spacciatori di droga, in pratica. Beh, ha scelto un ambientino colorito per farsi un'esperienza. Ah sì sì, avevo una pistola elettrica illegale sotto il bancone. Per dare la scossa. Certo, in realtà erano persone simpaticissime. Ma il via vai come funzionava? Si entrava, si consumava e ci se ne andava? Vivevano lì, vivevano lì perché essendo davano delle fotocopie di documenti falsi, tipo Pasquale Esposito, poi erano neri come titoli di carbone con la foto. Come Ciro, può succedere questo? La tamuriata nera, insomma. Ah, certo, una cosa del genere. E io però ho preso a cuore, diciamo, dalla loro parte e consentivo che nascessero storie d'amore tra le prostitute che erano sorvegliate dai papponi e gli spacciatori. Come un cupido. Facevo un cupido dello squallore e rimpiango, diciamo. Ma perché aveva così a cuore l'aspetto sentimentale dello spacciatore da procurargli anche gratuitamente quello che avrebbe dovuto in realtà pagare? Ma no, loro pagavano. Era un'intima d'azione gratuita, tra l'altro, tra queste persone. Le prostitute anziane che controllavano le giovani non volevano che entrassero in contatto, perché queste ragazze vengono tenute isolate. E allora in queste stanze di nudo cemento nascevano questi amori, e io chiudevo gli occhi quando questi passavano, si spostavano da una stanza all'altra, li aiutavo a ordinare da mangiare. Erano dei bunker praticamente, come un obitorio era. Un obitorio, un labirinto, un luogo di sogno, e così. E questo l'ha segnata, sento. Come? L'ha segnata molto questa esperienza. Assolutamente, assolutamente. No, ero andato lì per scrivere il mio grande romanzo, ma ovviamente... E invece poi si è sposato. Non proprio, insomma, ho procreato. Vabbè, evidentemente non era proprio molto convinto che questo aspetto dissolutivo sarebbe stata la chiave poetica della sua esistenza, però il fatto che la racconti sia ancora vivo nonostante quello che ha passato ci dà speranza di credere che ancora esista bontà nell'umanità. Lasciamo la linea per un attimo alle informazioni della borsa, tra un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. La prima cosa è regolare casa e terreno. Sì, ma ci vuole la licenza. Niente, la licenza non è niente, si mette a posto subito, è il resto che conta. Ma come vi è venuto in mente? Con quello che volete fare vi andate a mettere in una casa d'affitto. Bisogna avere proprio la testa come la vostra, è così che vi fregate tutte. Già. Chicosi? Vengo, dottore. Domani vai su. Sì. Ti metti in contatto per il terreno. Si occupa di tutto Chicosi qui. Bene, dottore, ho tutte le carte già pronte. Allora vado dal notaio. Vai, vai. Ma è per il resto? Che resto? Io compro e l'affitto lo pagate a me. Chiaro, eh? Per i primi 2 mesi uomini nix. Poi quando il ristorante ingrana voi ricominciate e a me mi passate 1 milione al mese. 1 milione? Beh, perché ce la fate. Articoli come voi fanno più del doppio, lo sai benissimo. Ma prima devo sentire le altre. Ah, vai così, te lo dice Ercoli. Poi ho casa, terreno, licenza, nessuno che vi dia fastidio. Vi mando pure i clienti. Voi dovete pensare soltanto a lavorare. Hai visto che da sole non potete fare niente? Non avete neanche cominciato e già state inguaiate fino al collo. Ti tieni in contatto con Gigosi, eh? 800240024, stiamo parlando delle suggestioni, le contraddizioni, gli abissi perigliosi e le vette sublimi che si scoprono al di là della porta di una stanza d'albergo. Questo è il caso in cui Simone Signoret, Sandra Milo e le loro compagne, appunto Ado e le compagne, allo scoccar della legge Merlin, messe per la strada dal loro lavoro di prostitute in legali riconosciuti bordelli, decidono di aprire un albergo dove il pappone che le aiuta vorrebbe continuassero a prostituirsi, ma in realtà loro volevano fare un bel alberghetto con un ristorante e cambiare vita, vero? Sì. Giuseppe Sanzon. Il lenone metafisico Claudio Gora, che menzione speciale a questo attore splendido, in uno dei capolavori del cinema italiano di Pietrangeli, regista mi sconosciuto, che coglie appunto il cambiamento antropologico, la voglia di riscattarsi, la voglia di creare una situazione sulle prime ambigua, appunto questa è una variante dell'albergo, perché la locanda con stanza annessa, anche per coprire la facciata un po' dell'ipocrisia borghese e la necessità di svicolare in camera di soppiatto e uscire dal retro dopo aver consumato, insomma, ognuno il momento di evasione. Questo è molto curioso, è interessante poi queste donne che cercano il loro riscatto, una splendida Simone Signoret che capeggerà Emanuele Rivai, Gina Rovere e Sandra Milo in questa impresa che poi purtroppo per la feroce e il cinismo maschile si rivelerà fallimentare. Andiamo avanti con Claudio, che Claudio è un altro degli alberghieri compulsivi che ci chiamano molti uomini, sembra quasi che le donne non abbiano esperienza d'albergo, forse ce l'hanno, non le voglio raccontare. Capita molto di vedere signore e signorine che frequentano gli alberghi e mi sono tante volte domandato il punto di vista di una donna che va da sola in albergo. La mia forse è una mentalità arretrata, ma come vede una donna d'albergo, come vede una volta chiusa la porta questo luogo metafisico che tutto potrebbe promettere, che tutto potrebbe far vedere e che molte volte, ahimè, altro non è che un luogo di estrema reclusione, una clausura forzata. Claudio. Pronto, buongiorno Nicoletti. Lei quanto ci passa in albergo? Ma diciamo che almeno una settimana al mese, ecco, diciamo, da cliente ovviamente. Quindi lei un quarto della sua vita più o meno la passa in albergo? Ma sì, negli ultimi anni sì, praticamente in tutta Italia e a volte anche all'estero, causa lavoro ovviamente. Allora, senza... determinazione di classe alberghiera, va in qualsiasi tipo di albergo o frequenta solo quelli di livello? No, diciamo che visto che comunque è l'azienda che paga le spese, diciamo che in genere cerco tramite un sito internet molto famoso, prenoto sempre dallo stesso sito, sono degli alberghi abbastanza di discreto buon livello e comunque i finti 4 stelle, stelle che mediamente danno un'apparenza di albergo di lusso, anche se poi uno trova qualche scarafaggio sotto il letto. No, magari quello diciamo sulle 80-90 euro al giorno e comunque beh, 90 euro in Italia, guardi, adesso non voglio sembrarle con la puzza sotto il naso, ma 90 euro è un 2-3 stelle in una grande città. No, Nicoletti, non è così, abbia pazienza, perché comunque se lei va su alcuni siti trova sempre degli hotel che hanno delle stanze messe in offerta speciale, se vogliamo. Ah, beh, se uno cerca le offerte, sì, last minute. Quindi, lei che mestiere fa? È possibile dirlo? Sì, diciamo che io sono un detective privato e diciamo che mi chiamo Claudio, ecco, via. Lei va a spiare, orecchiare, acquisire elementi di prova per coppie clandestine, naturalmente, allora. Ma non solo, a volte mi capita di seguire delle persone che poi puntualmente arrivano in questi motel che io chiamo dei scannatoi, dove passano qualche ora così furtivamente la notte, oppure a volte appunto spesso mi capita di andare fuori Roma, un po' in tutta Italia, alloggio negli hotel dai clienti perché devo fare lavori che riguardano, non so, gli assenteisti sul lavoro, i falsi malati, l'infedeltà aziendale. Ecco, lei che strumenti tecnici ha, per auscultare, fotografare, vedere, come si fa per capire, perché così uno si rende conto che anche in albergo potrebbe avere, diciamo, delle necessità di attenzione maggiore. Ma io adesso non vorrei scendere troppo nei dettagli. Beh, qualcosa ci faccia capire. Ma diciamo che il classico oggetto che si usa, diciamo, sono delle videocamere. Vabbè, quella ci abbiamo tutti, basta un telefonino. Esatto. Il telefonino è una videocamera, quindi. Dai, diciamo così. Comunque, quello che volevo dire, appunto. Senta, ma lei viaggia solo o per gettare fumo negli occhi si porta una donna dello schermo o un uomo dello schermo? No, allora, diciamo che l'80%, il 70-80% delle volte sono solo. A volte viaggio con dei colleghi, quindi comunque dopo 5-6 giorni in un'altra città, in albergo, per quanto anche l'albergo possa avere, non so, la spa, la palestra e tutto, dopo 5-6 giorni inizio un po' a pesarmi, diciamo, la lontananza ovviamente dal mio ambiente, di casa, il disordine di casa propria, un po' la solitudine, lo star lì a pranzare. Senta, questo poi me lo può dire, lei naturalmente ha rapporti molto intensi con le maestranze d'albergo, perché avere notizie, lei dovrà infilarsi nella stanza appena lasciata dietro la cameriera per vedere le tracce sulle lenzuola, le cose del genere, se no come fa a acquisire elementi? Ma ecco, non scendiamo. Quindi ci ho preso. Quello che le volevo dire, Gianluca, è che praticamente io quando prenoto, la cosa importante è che l'albergo, diciamo, ci sono delle spunte su questo sito che ti restringono un po' il campo della ricerca. Io cerco sempre, mi accontento, diciamo, devi avere quantomeno un parcheggio auto gratuito, comodo, perché viaggio in auto e a volte non si trova nei centri delle città o si pagano cari, e la linea DSL wifi gratuita, perché non gratuita. Allora, se lei mi fa un elenco degli alberghi in Italia che hanno il wifi gratuito, le sono grato, che costa sempre 10 euro un'ora di navigazione, lo trovo atroce e infame. No, basta, appunto, questa qui è una cosa importante, bisogna setacciare un po' per trovare chi la offre gratuitamente, nonché poi se una terza cosa in più ci sono, no, per esempio mi fa molto comodo la TV satellitare per vedermi una partita e possibilmente anche la palestra. Sì, ma lei quando lavora, scusi, allora quando è che sorveglia le persone? Perché con tutto non è che io se vado, non so, a Lecce, sto una settimana, lavoro 15 ore al giorno, ovviamente, insomma. È abbastanza chiaro. Grazie Claudio. Walter. Buonasera Nicoletti. Buongiorno Nicoletti. Buongiorno. Scusi. Rendo conto che il fuso orario per un alberghiero compulsivo è molto fluttuante. No, ma poi fra parentesi, perché io, a differenza degli ascoltatori che mi sembrano siano intervenuti fino ad ora, viaggio tantissimo all'estero, cioè in tutto il mondo, quindi mi ritrovo ad andare dall'Australia al Sud America, al Medio Oriente, continuamente, ormai lo faccio da 25 anni. E qual è la differenza rispetto a quello che ha sentito? Noi siamo provinciali, le nostre misere frequentazioni. C'è una sostanziale differenza, infatti per questo mi fa piacere e vi ringrazio di farmi intervenire, perché con viaggi di questo tipo, con viaggi così distanti, dopo 20, 15, 30 ore di aereo, l'albergo non diventa, una zona di reclusione, una zona dove ti rinchiudi, diventa piuttosto una meta, come un'isola felice, dove non vedi l'ora di arrivare per tranquillizzare, per stare sereno, per pensare agli affari tuoi. Cioè, tutto sommato, indipendentemente che l'albergo sia da 2 a 8 stelle, questa è una cosa che dopo 25 anni non noti più, hai più d'agio, diventa il concetto di come ti costruisci tu la tua permanenza nell'albergo, non tanto il luogo di dove il luogo di destinazione dove arrivi, quindi diventa automaticamente un qualcosa che ti rilassa, ti conforta, ti mette al sicuro, anche dopo una riunione con dei clienti, io non faccio nulla di speciale, sono un direttore commerciale di un'azienda. Dopo una riunione di una giornata con un cliente, piuttosto che andarci a cena, non vedi l'ora di ritornare in albergo e magari assapori quel momento in cui hai la tua cena davanti alla TV, dove generalmente ci sono le TV satellitari, quindi vedi anche la Rai in Australia, per dire. Lei ha detto una cosa molto giusta e molto condivisibile anche per chi viaggia semplicemente a latitudini nostrane. In realtà, per chi ha una famiglia, per chi ha vite turbolente, faticose, come ognuno di noi che comunque ha anche degli impegni personali, andare in albergo è una grande vacanza. per una sera si va a letto e non si deve pensare agli altri, per una mattina ci si sveglia e ci sono i ragazzi, devono preparare per la scuola le colazioni assieme, il vestirsi. Questo è il grande lusso della fuga alberghiera. Ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Si presentava dalla prescelta come il conte Mascetti, si sdegnava alla notizia che la poverina alloggiava in una delle solite squallide pensioni e la invitava a trasferirsi nel migliore albergo della città. Lui non badava a spese, perché tanto avrebbe saldato il conto col sistema del rigatino, come lo chiamava lui, che consisteva nell'alzarsi la mattina dopo all'alba, quando tutti ancora dormivano, infilarsi appunto una giacca a rigatino da facchino rimediata nel guardaroba al piano, prendere l'ascensore di servizio, agguantare le valigie di qualche cliente in partenza o in arrivo e passare con quelle davanti al portiere di notte, abbandonando quatto quatto l'albergo e ponendo così fine all'avventura. Invece quella volta la cosa lo coinvolse molto di più. Giuseppe Sansonna, stiamo parlando delle suggestioni, delle fantasie, delle poetiche nostalgie di chi ha vissuto, chi vive, chi ha ricordi legati a stanze d'albergo. Questa del rigatino, di cosa si tratta? Questo è Amici miei, atto secondo. Il conte Mascetti, alias Ugo Tognazzi, elabora e reinventa l'albergo come proprio palcoscenico in cui regalare un sogno a questa contorsionista che poi porterà e poi chiuderà in questa valigia e spedirà all'estero per liberarsene. Però nel frattempo le regala il sogno di vivere con questo nobile in questo albergo di lusso per poi svicolare all'alba. Questo è e quindi siamo ancora in quel discorso dell'ascoltatore di prima, cioè l'albergo come sospensione nel tempo, è un tempo sospeso in cui ricostruirsi, in cui da riallestire, da rendere favoloso. Questo è molto curioso. Sì, è anche interessante vedere come sia impossibile ritrovare connessioni del tempo passato in albergo con il tempo consueto. Persone conosciute in albergo, persone frequentate in albergo, persone intimamente conosciute in albergo, rincontrarle a distanza di anni, a distanza di tempo. Sono degli estranei. Perché? Perché è condiviso uno spazio e un tempo che non è quello di tutti i giorni. È come uno scompartimento ferroviario, però fermo. Ha più o meno le stesse dinamiche. Solo che lo scompartimento si muove, l'albergo rimane lì, è testimone muto dei tuoi momenti innominabili. Sabrina. Buongiorno Nicoletti. Io ho chiamato perché sono una donna che viaggia da sola per lavoro abbastanza frequentemente, lavorando nel turismo. E sono molto interessata all'argomento, però diciamo, nonostante condivida questo, diciamo, tutto questo discorso che avete fatto sull'atmosfera di sospensione della camera d'albergo, ecco, non vorrei, diciamo, abbassare il livello, ma per una donna che viaggia da sola forse il problema più grosso è la cena, perché per una donna che viaggia da sola andare a cena in un ristorante, soprattutto se si prova tutti gli omini da soli, un tavolo, un omino, come avete detto prima, sì, è tristissimo, sala, lo so. È una cosa di una tristezza infinita e soprattutto uno si sente il feromone che alza i tavoli, me ne rendo conto, essendo l'unica donna. Sì, sì, uno si sente tutti gli occhi puntati addosso, allora lì la camera d'albergo diventa veramente il rifugio dove tu scappi, perché è la tua isola in quel momento dopo le arrabbiature della giornata e finalmente trovi un po' di pace. Io devo dire, guardi, per esperienza viaggio abbastanza e mi capita spesso durante il mese di passare notte in albergo. Queste donne sole in albergo, ha ragione lei, non hanno nessun fascino da femme fatale, da belle dame sans merci, da donna viaggiatrice misteriosa. Sono donne che vorrebbero scomparire nella moquette delle pareti, perché sono tediate, annoiate, non c'ha nessuna voglia di perdere tempo, vorrebbero mangiare in fretta e furia e scapparsene in camera, togliersi le scarpe e riposarsi. Conforta questa mia idea. Quelle che invece non danno questa impressione sono le professioniste alberghiere, ma quelle si riconoscono subito. Sansonna. C'è una scena sublime di un film di Avati, Il regalo di Natale, in cui proprio una scena descritta dalla signora, c'è una questa donna sola che mangia in questa hall, arriva delle piane e lei si avvicina e, vedendola sola, dice: lei è una prostituta. E lei nega, perché è semplicemente una donna sola. Dice: peccato, perché per un uomo come me l'unico modo per stare con lei è quello di una prostituta, che lei fosse una prostituta. Quindi è proprio questa la situazione che si viene a creare. Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Buongiorno. 90 giorni all'anno in albergo. 90 giorni all'anno in albergo, e devo premettere che io adoro stare in albergo per nottare, non solo per nottare, ma proprio adoro l'albergo, adoro tutti i posti di frontiera, chiamiamo così, e questo pensato da sempre, anche adesso che ho famiglia, se fosse per me vivrei in un hotel. Prima mi ha lasciato così le sue parole quando diceva abbiamo l'aspettativa di incontrare qualcuno ed è un posto dove sì viene auspicato questo, no? Diciamo che l'aspettativa ci fa compagnia, diciamo su 100 volte se ne incontra una, capita nella vita, ma ci fa compagnia pensare possa succedere, ecco. Lo vivo un pochino in maniera diversa, molto spesso è come se per me fosse una sorta di acquario, nel senso che ho il piacere di star lì e osservare quello che accade, no? Ed è una grande vetrina oltre la porta, come dire, è un modo per osservare il mondo quasi senza essere visti, volendo. Difatti molto spesso cerco hotel e qui faccio un appello agli albergatori, perché credo che ci siano tre punti fondamentali da migliorare in Italia. Il primo è sicuramente la connessione internet, è fuori luogo le tariffe che vengono chieste per un'ora di connettività. Sì, vabbè, questo adesso però è fuori dal tema, teniamoci al tema con Marco. Marco, fatto il portiere di notte in albergo? Sì. Per quanto tempo? In che alberghi? Per alcuni anni diciamo un albergo di 4 stelle e poi dopo alcuni anni sono passato diciamo dall'altra parte, sono passato a frequentare alberghi per lavoro, soprattutto all'estero, mi riferisco soprattutto all'estero. Ecco, avendo fatto il portiere, qual è il punto di vista del cliente che conosce anche il meccanismo di chi gestisce l'albergo rispetto a queste visioni romantiche, un po' nostalgiche, piene di attese di cui stiamo parlando? Ma devo dire che in realtà io penso siano proprio due realtà, una cioè in contrasto con l'altra, su due fronti. C'è chi ci lavora e quindi la noia e appunto la quotidianità di vedere le persone che arrivano, e poi d'altra parte invece chi ci arriva, appunto, a volte ha questa sensazione anch'io di vivere in un posto che è un'isola dove tutto quanto è fermo, ci si può in sostanza isolare dal resto del mondo. E quindi anche dal punto di vista di chi gestisce l'albergo e fa il portiere di notte rimane l'idea che abbiamo lanciato all'inizio del luogo che è attraversato da una realtà parallela, sia per chi lo gestisce che per chi ci passa ogni tanto come cliente. Ma dici abiti proprio qua? Per forza che non ti basta un stipendio, certo abiti dentro un albergo. Per me è più pratico. Che peccato. L'ho finito il binirin? Grazie lo stesso. Dove vai? Devo andare via. No. Mi dispiace. No, devo andare via. Giuseppe Sansonna, questa è la situazione, la portiamo in conclusione della trasmissione, che tutti vorrebbero aver allucinato e vissuto. Sì, qui tornando al microcosmo dell'albergo, c'è il piano barista Angelo Infanti, c'è la Minela Vukotic, che è la prostituta che vive nell'albergo, se l'è fatto con i suoi separè cinesi, e incontra Mimmo Verdone, ingenuo. Il povero scemo. Caterina, per chiudere con lei. Sì. Per lei l'albergo è l'assistente di volo che passa con le valigie, con tutte le sue colleghe in divisa, e fate queste frotte di femmine che vanno soltanto a riposarsi e farsi passare il jet lag? Sì, decisamente. Questo poi è proprio il mio caso. Io ho sempre visto l'albergo come finalmente, ecco, sono arrivata, mi riposo, lontano da doveri familiari, dalla confusione, tra i motori dell'aereo e dei passeggeri, per carità. Finalmente, ecco, il riposo. Una sera in particolare arriviamo stanchi, in ritardo, mi metto il mio pigiamone. Per me, io sono stata abituata ad alberghi molto belli e non mi sono mai dovuta preoccupare neanche di cercarli, perché comunque dato il lavoro... Sì, infatti le compagnie di bandiera avevano qualche problemino, sì, anche per questo. Adesso sono in cassa integrazione, comunque forse sto pagando anch'io allora questo che ho avuto per 20 anni. Vabbè, non se la prenda, comunque, lei può frequentare comunque gli alberghi. Assolutamente. Grazie mille Caterina, grazie Giuseppe Sansonna, grazie Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini, ci sentiamo domani. Alors tous deux on est parti dans tourbillon la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.